prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ben ritrovati da Mirko Cavallin, l'appuntamento settimanale con la Caritas diocesana di Padova. Torniamo su un incontro che si è svolto ormai qualche settimana fa, ma nel nostro viaggio alla conoscenza delle realtà vicariale e parrocchiale è importante dare conto anche di questa iniziativa. Sono creature che crescono, è l'incontro che si è svolto a Villa Immacolata a Torreglia dei centri di ascolto vicariali. 18 sono quelli attualmente attivati, si chiamano nella dicitura integrale centri di ascolto vicariali delle povertà e delle ricchezze, delle risorse, nati negli ultimi 2 anni appunto nelle diverse zone della diocesi. Questi centri hanno festeggiato i loro particolari e singolari compleanni, si sono riuniti addirittura 150 volontari e si è ragionato insieme sui percorsi possibili che partono dall'ascolto e arrivano all'accompagnamento, sia per chi si rivolge allo sportello e sia invece per chi sta dall'altra parte, per chi accoglie. Questa nuova realtà del centro di ascolto vicariale sta cambiando il volto delle Caritas locali e della presenza della Chiesa padovana sul territorio. Ha avvicinato tantissimo ai territori, ai paesi, alle persone e continua a favorire in modo esponenziale la crescita di relazioni, permette di rendersi conto delle dinamiche reali che toccano la vita delle persone. Questo per quanto riguarda l'utenza, chiamiamola così, cioè le persone che si rivolgono appunto ai centri di ascolto, agli sportelli, ma l'importante lavoro che la Caritas diocesana sta facendo e vuole potenziare riguarda soprattutto il rapporto e le relazioni con i volontari. Loro svolgono un servizio davvero impegnato e impegnativo. Portano avanti un cammino di ascolto e accoglienza continuo che è straordinario e come Caritas si vuole percorrerlo con loro, sostenendoli nell'organizzazione e supportandoli nella formazione personale specifica al loro ministero. Ogni centro di ascolto ha una propria fisionomia perché rispecchia la realtà locale, quindi soprattutto i bisogni del proprio territorio. Ciascuno poi ovviamente ha anche dei punti deboli e dei punti di forza su cui camminare. Un'equipe della Caritas diocesana si sta muovendo per zone della diocesi creando un contatto diretto con i centri di ascolto, in occasione di confronto con i volontari e anche di raccolta dati sull'andamento della crisi e della povertà sarà presentata tra l'altro proprio la settimana prossima. Un dato per tutti: c'è stato un aumento di accessi degli italiani agli sportelli, questo ce l'hanno raccontato anche i diversi referenti vicariali in queste settimane nella nostra rubrica. La crisi ha rotto un equilibrio, li ha portati a cercare i servizi Caritas. Questo non è un aspetto indifferente per un volontario, sempre di più infatti con disagio ci si specchia nell'utente. E allora questa giornata di festa, di formazione, di confronto è stata fondamentale. Grande partecipazione, hanno detto i responsabili, i facilitatori dei gruppi in cui si è condiviso il lavoro. È stato fondamentale appunto il confronto tra i volontari, 150 come abbiamo detto, pur provenendo da realtà diverse, è davvero comune il bisogno di condividere i problemi che spesso si rivelano identici e soprattutto il non sentirsi soli. Insieme si sono analizzati i punti di forza e difficoltà, lasciando la libertà di raccontare. E poi ovviamente per loro nei vari cariati nelle parrocchie è fondamentale il fatto di poter contare sul supporto della Caritas diocesana. Una delle criticità che è emerse nel confronto è proprio il fatto che questi volontari si sentono poco compresi dalla comunità, dal sacerdote addirittura. Spesso è proprio il volontario più motivato che trascina il gruppo, diventa punto di riferimento per gli altri. Importante dunque l'attenzione e il sostegno della Caritas diocesana nel coinvolgere le persone e con loro costruire un percorso dall'interno, prendendosi cura di chi si prende cura, e il volontario questo lo percepisce. Il volto nuovo appunto dell'essere Caritas, persone della Caritas, sarà questo: non più dei semplici dispensatori, ma persone capaci di progettare interventi di aiuto. Questo dunque per la giornata di Villa Immacolata a Torreglia, ma ormai si avvicina l'estate, le iniziative le abbiamo presentate anche nei giorni scorsi. Ricordiamo quelle per i giovani dai 18 ai 35 anni, dal 22 luglio al 2 agosto, il campo internazionale da Tunisi a Biserte. Nei primi tre giorni i giovani sosterranno appunto nella capitale della Tunisia, visitando la città, incontrando dei coetanei con cui si confronteranno su argomenti come l'integrazione religiosa, l'emigrazione e i diritti umani. Poi, dal 26 luglio al 1 agosto, ci si sposta a Biserte. Qui saranno ospiti di un ordine di suore, organizzeranno e gestiranno con le religiose un centro estivo per bambini su musica e pittura. Sempre per la fascia 18-35 anni c'è la proposta prettamente padovana. Punti di svista in città sarà dal 2 all'8 agosto, un campo residenziale a Padova che vedrà i giovani impegnati in un servizio operativo in una realtà assistenziale per anziani, disabili o senza dimora, e nel tardo pomeriggio incontreranno invece persone e testimoni impegnate nel sociale. Ci sono anche delle proposte per gli adolescenti tra i 15 e i 17 anni, due proposte che si svolgono di giorno. Una si sta concludendo proprio in questi giorni, si sta svolgendo nelle strutture IRPEA, San Giuseppe e Santa Rosa. La seconda è in programma da lunedì 22 a sabato 27 al centro diurno dell'ANFAS di via Due Palazzi. Attività di servizio si alterneranno a tempi specifici dedicati, il campo si chiude ogni giorno alle ore 16. Due tra le tante iniziative estive, le altre, anche quelle successive, le trovate segnalate sul sito www.caritaspadova.it, oppure potete scrivere una mail a volontariato@caritaspadova.it. È tutto anche per questa settimana. Con la rubrica dedicata alla Caritas ci risentiamo puntualmente fra 7 giorni. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.